tempo di sport. Minimi sono di almeno 6 mesi, anche se poi una prognosi definitiva arriverà più avanti, quindi stagione ampiamente finita e la prossima inizierà in ritardo. Mentre invece c'è Samuel nella comitiva dell'Inter che è in partenza per Manchester. Samuel ha superato il provino di stamattina ed è stato incluso tra i convocati, mentre è confermata l'indisponibilità per infortunio di Chivu, di Materazzi e di Burdis. Sarebbe però un peccato fuggire in avanti, visto che la Juventus gioca domani sera con il Chelsea e Inter e Roma mercoledì, senza ripassare almeno in parte quello che è accaduto tra sabato e ieri, perché gli spunti interessanti non sono mancati, a cominciare da questi due grandi vecchi del gol che hanno trovato una domenica fortunata, ma fortunata con pieno merito, sicché sono state se la tripletta di Inzaghi è servita al Milan per rimettere a distanza i concorrenti al quarto posto, quella di Di Vaio per il Bologna è servita addirittura, è servita molto di più in realtà per riscavalcare il Torino, allontanare il Chievo e rimettere il Bologna in una posizione un po' più tranquilla, certo non definitiva, ma un po' più tranquilla di classifica. Allora sentiamo questi due giocatori, non più giovani, il più giovane dei due ha 32 anni suonati ed è per l'appunto il capocannoniere Di Vaio. Molto pesanti e importantissimi per noi per portare a casa questa vittoria, dunque sono contento, voglio dimostrare che non ero finito come qualcuno diceva l'anno scorso dopo la stagione a Genoa, e poi un ambiente ideale per me e per la mia famiglia, grande serenità, grande fiducia da parte di tutti, e devo dire che è un ambiente molto positivo per le mie caratteristiche, per il mio modo di essere, dunque questo è un po' tutto. Io spero di continuare qui, ma c'è già un accordo con la società, dunque spero di continuare qui in Serie A soprattutto, e che la cosa sarebbe il massimo per noi. C'è la passione sicuramente, se c'è la voglia, se hai la fortuna di stare bene fisicamente, e poi dopo alla fine esce fuori quello che è il tuo modo di giocare. E Pippo è un esempio che a 36 anni riesce a fare una tripletta, è soltanto un esempio che è da seguire. Sinisa Mialo, il allenatore, com'è? È molto esigente, come quando era giocatore, però ci ha portato una mentalità diversa e ci sta aiutando a uscire fuori da questa situazione. Era una parte dell'intervista concessa ieri a Di Vaio a Carlo Genta nell'ambito dell'appuntamento domenicale serale di A Tempo di Sport. Di Vaio in altra sede ha anche detto di non negarsi nulla sul piano delle speranze, delle ambizioni e si è detto pronto a rispondere ad un'eventuale chiamata di Lippi. È ovvio che non sarebbe una chiamata per costruire il futuro, sarebbe una chiamata di stretta attualità, vedremo poi cosa deciderà il commissario tecnico. Certo, 19 gol giocando nel Bologna, a maggior ragione, con tutto il rispetto, mi sembra una squadra che dalla prima giornata sta lottando per salvarsi, 19 gol sono davvero tanti, sono molti meno quelli di Inzaghi, in compenso gli anni sono di più, perché ormai Inzaghi va per i 36, e sono l'ennesima accensione, no? di una carriera che ultimamente, causa anche alcuni infortuni, va un po' a singhiozzo, ma che non appena Inzaghi ritrova un po' di salute psicofisica, fisica soprattutto, si rilancia. Sentiamo Inzaghi. L'obiettivo è quello di stare come oggi, di stare bene fisicamente, poi i gol arrivano, sono frutto anche del lavoro che fa la squadra, insomma quando sto bene sono felice, mi diverto e poi insomma bisogna tirare avanti piano piano e vedremo quello che succederà. Penso che il traguardo più bello sarà quello dei 300 gol nei professionisti, ecco, questo è una cosa a cui tengo particolarmente, ne mancano due e siccome ricordo il primo di Leffe come se fosse ieri, e penso tutto quello che è passato, tutte le giornate che ci sono state, insomma sono molto felice. Poi è chiaro che quando posso giocare una partita a settimana è tutto più semplice, posso allenarmi bene. Io sentivo in questi giorni di star bene, però a volte non è il fatto di star bene, di far gol, non è sempre matematico. Paolo da Bergamo scrive: certo che il calcio italiano, che ha in copertina due attaccanti già in voga 10 anni fa, qualcosa la dice sul livello attuale del nostro calcio, ma insomma entro certi limiti, perché poi nel frattempo tanti ne sono venuti fuori, tanti hanno un eccellente futuro, a parer mio, a cominciare da quello del Cagliari, da Acqua Fresca, ma non è l'unico, probabilmente anche Balotelli. Credo che Che invece il fatto che ogni tanto una copertina la rimedino ancora gli Inzaghi e Di Vaio significa che è merito loro più che demerito degli altri. Farei anche, in attesa poi appunto dei vostri interventi, farei anche una riflessione su questo. Avendo visto in parte insomma, le partite di ieri in cui erano impegnati Milan e Bologna, mi auguro che sia Di Vaio che Inzaghi abbiano dedicato le loro triplette ai rispettivi portieri, perché sull'andamento della partita io credo che a Milano Abbiati e a Bologna Antonioli abbiano inciso in maniera assolutamente determinante, e credo anche che se erano stati bravi sia Inzaghi che Di Vaio a mandare in vantaggio la loro squadra, non so se gli altri due gol rispettivi ciascuno sarebbero venuti se nel frattempo Abbiati e Antonioli non avessero compiuto parate eccellenti e comunque decisive. E quindi insomma, un conto sono i cannonieri, un conto sono i portieri, un conto poi è una valutazione globale di quello che accade. E un altro bel attaccante certamente che ha fatto cose egregie ieri è Rocchi. I suoi due gol al Napoli portano il totale a 6 dei gol di Rocchi alzandosi dalla panchina, tant'è vero che è il giocatore italiano che ha segnato di più entrando partita iniziata. È una specialità della casa, evidentemente. Ieri Rocchi è stato micidiale addirittura quando è entrato, da quando è entrato, perché ha segnato praticamente subito. Anche in questo caso i meriti dei compagni ci sono, e sono, vabbè, se vogliamo metterla in maniera così un po' diversa, un merito è certamente quello di Zarate, nel senso che tanto Zarate è egoista e fumoso e convinto di voler vincere partite da solo, tanto e gira per questo campo non mollando mai la palla, tanto Rocchi punta direttamente la porta avversaria. Quindi dà quasi l'impressione che, non so come dire, di stordire gli avversari nel primo tempo e di farli credere che in realtà la Lazio va in orizzontale più che in verticale, e poi quando arriva Rocchi al momento buono li colpisce a freddo. Al di là di questo, nel primo gol di Rocchi c'è una magia autentica di Pasquale Foggia che è al limite della propria area sulla sinistra, controlla un pallone in uscita e in disimpegno tutt'altro che semplice, e improvvisa lì in quella zona di campo pericolosa un dribbling ad allargare, e poi batte un lancio di non so se 50 o 60 metri e pesca Rocchi completamente solo nella metà campo avversaria, con i complimenti alla difesa del Napoli, ma anche con i complimentissimi per questa giocata di Foggia e per come Rocchi lo ha seguito scattando addirittura entro la propria metà campo. Due squadre, abbiamo detto Napoli, e una delle due squadre nel mirino ieri, poi anche il Catania ha perso una brutta partita, ma insomma il Catania probabilmente ha pagato un eccesso d'euforia seguito al 4-0 in trasferta sul campo del Palermo. La sconfitta che pesa, le due sconfitte che pesano davvero sono quelle del Napoli e della Fiorentina, anche se quella del Napoli lo taglia praticamente fuori ormai da ogni ambizione europea, quella della Fiorentina invece, stanti le sconfitte del Genoa e il pareggio della Roma, ha lasciato un po' le cose come stavano, ma ha detto e ha confermato che quello della Fiorentina non è certamente un buon momento proprio da un punto di vista di qualità calcistica. Sentiamo prima Reia. Siamo entrati in un vortice che non riusciamo ad uscire, oltretutto piove sul bagnato, ieri si è fatto male Gargano, oggi si è fatto male anche Maggio, forse ne avrà per 40 giorni, bene che vada, dai 40 ai 50 giorni, e pertanto un momento che gira veramente storto. Abbiamo fatto per un'ora, abbiamo fatto anche bene, abbiamo avuto delle buone opportunità, Muslera è stato uno tra i migliori in campo per la Lazio, le opportunità le abbiamo create, però purtroppo non riusciamo a metterla dentro. Poi subiamo un gol che è veramente incredibile, questa è una colpa nostra, perché su un'azione a nostro favore, su un calcio d'angolo, c'è stata la ripartenza di Rocchi che ha fatto 40-50 metri da solo, e lì è un nostro difetto, una nostra colpa sicuramente. Un gol così non si può assolutamente prendere nelle condizioni in cui siamo noi in questo momento, perché tre giocatori sono andati su Foggia e c'era Rocchi dalla parte opposta che da solo si è trovato davanti a Navarro e l'ha messa dentro. Beh, certo, è la stessa azione che descrivevo prima, letta in chiave difensiva, cioè letta nella chiave di chi lo prende, però è anche vero che nella chiave di chi invece la giocata la inventa e la realizza è tutto un altro discorso, come sempre d'altra parte. Reia parlava anche di maggio, la prognosi anche in questo caso è impietosa, la stagione è praticamente finita o certamente finita anche per maggio oltre che per Gargano. Continuano in tutte le squadre a tutti i livelli, continuano questi infortuni sempre più gravi, con prognosi sempre più lunghe, e una volta o l'altra bisogna pure interrogarsi, poi io credo seriamente da parte dei sanitari, credo, no? Delle nostre squadre, e non sono nostre, se è per quello, sul perché questa moria autentica di giocatori. Soltanto tra sabato e ieri ne sono saltati 7-8, ma saltati vuol dire che hanno praticamente concluso la stagione o comunque riusciranno a giocare solo proprio nelle ultimissimi scampoli di partite, e questo mi sembra che rispetto ai dati a cui eravamo abituati sia un salto di qualità all'ingiù, proprio di quelli notevoli. Sentiamo Prandelli sul momento della Fiorentina. Le prestazioni da un punto di vista, diciamo, della volontà ci sono sempre state. Ultimamente magari ne ha perso un po' di lucidità, un po' di brillantezza, un po' di idee. È lì che dobbiamo cercare di capire, ma non soltanto Riccardo, molti altri giocatori hanno sbagliato tanto da un punto di vista proprio del disimpegno, delle situazioni talmente semplici da sviluppare. No, erano saluto tutto lo stadio, sono stati bravissimi fino alla fine, hanno sempre comunque aiutato la squadra, poi quando arrivano i fischi dopo una prestazione così bisogna accettarli e stare zitti. E questo era Prandelli, i primi ascoltatori di oggi. Carlo ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno della signora, lei a chi ci ascolta. Ma mi costa un po' parlare di Ibrahimovic, perché io sono innamorato della maglia bianconera da bambino, per me è la più elegante, è lo smoking del calcio, Garanzini. E quindi, però questo ragazzo, insomma, io ho visto una rete che ho pensato molto, perché io ho 72 anni, e non mi sembra di averne viste di più belle. Lui ha fermato con la fronte una palla che gli spioveva dopo un rimbalzo un pochino meno forte che se fosse spiovuta direttamente, però l'ha accarezzata con la fronte come se ci avesse al posto della fronte una mano femminile. L'ha sfiorata credo un paio di volte, poi l'ha fatta cadere e di controbalzo avendo visto che il portiere gli veniva incontro, per evitare che la palla salisse ancora un po' e il portiere magari poteva andargli addosso, di controbalzo l'ha anticipato con un tocco, credo, di punta di suola. È una cosa, io non mi ricordo se aveva accanto un avversario, ma probabilmente anche se l'avesse avuto era solo lo stesso, forse esagero, cioè aveva un collo di luce sopra. Secondo me sì. Io ho visto una cosa, no, ma veramente, grazie. Sì, sì, ha segnato un grande gol, su questo non ci piove. Poi non so se avesse sopra il cono di luce, ho sentito un'intonazione lirica in questa descrizione. Meno male, se andiamo sulla lirica anziché sulla moviola non abbiamo che da guadagnarne. È stata indubbiamente una grande giocata. Poi io resto nell'idea che ci sia un problema di coefficiente, cioè un problema che si valutino sempre le prodezze sul coefficiente di difficoltà. Lasciar partire Ibrahimovic già lanciato e quindi sbagliando nettamente un fuorigioco dopo un minuto in casa come ha fatto il Genoa, insomma, c'è quella componente suicida che non si può negare da parte degli avversari. Dopodiché Ibrahimovic fa tutto al meglio, non escludo che così come è stato bravissimo sul controllo di testa che lei faceva notare, sia stato forse anche fortunato nel fatto che il pallone sia rimbalzato così poco in terra, cioè si sia forse quasi, no, dico afflosciato, ma insomma si sia un po' seduto, un po' schiacciato in una di queste gobbacce che infestano il prato di Marassi, che è certamente uno dei peggiori oggi su cui si possa giocare a calcio. In ogni caso ha domato quel pallone in maniera superba e ha segnato un grande gol. Fine del racconto del gol di Ibrahimovic, almeno per oggi immagino. Sergio da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. È un piacere parlare con lei. Mm-hmm. Senta, volevo un suo parere sul mio quesito. Dunque, secondo lei Gasperini, nostro allenatore, io sono genuano, che indubbiamente è bravo, non c'è niente da dire, però secondo lei com'è che ha gestito la questione di Vaio? E le dico questo perché secondo me Di Vaio è stato mal utilizzato nel Genoa, e secondo me ancora più grave è che ha sentito scarsa fiducia intorno a lui. È andato a Bologna, ha trovato l'ambiente ideale, anche perché al giorno d'oggi, se è vero che come gli scienziati dicono che la vita umana si è allungata di circa 25 anni, più o meno la vita, anche di conseguenza la vita calcistica calciatori si è allungata anche. Sì, non certo nelle stesse proporzioni, non sarebbe il primo caso comunque. Di un calciatore che trova l'habitat o ritrova l'habitat ideale in un certo posto anziché un altro. Non è stato soltanto il Genoa in questi anni a non capire Di Vaio, oppure non è stato soltanto a Genova che Di Vaio non è riuscito a farsi capire, a farsi sentire come invece gli sta risuccedendo a Bologna. Sono alchimie in cui non credo non ci sia mai la responsabilità di una persona sola, in questo caso il tecnico, come dice lei, c'è la responsabilità dell'interessato, del tecnico e di tante situazioni intorno. Infortuni maggiori per maggiore velocità, i noti giocatori sono più muscolari, gli impatti sono più violenti, scrive Max Panicacci in un messaggio. Non soltanto questo, io vedo che molti incidenti gravi, ma proprio gravi, succedono in allenamento e quindi mi pare che questa componente sia un tantinello diversa. C'è un'agenzia appena uscita in cui parla il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco, che tra l'altro è un ex direttore sportivo. Dice: il ruolo del medico competente è estremamente importante anche nella programmazione degli eventi. Nel calcio sarebbe meglio che i calendari fossero stilati e valutati anche dai medici. E poi ha aggiunto: televisioni e sponsor ormai hanno dettato tempi orari dei campionati, ma quando si stilano i calendari sarebbe opportuno che assieme alla Lega Calcio, sindacato calciatori e televisioni ci fosse anche la partecipazione dei medici competenti per dare un parere. In fondo è nell'interesse di tutti che non ci siano troppi infortuni, visto che senza i grandi campioni c'è un danno sia per le società che per le televisioni e quindi per lo spettacolo. È un ragionamento talmente logico che ho l'impressione non abbia nessuna possibilità di accoglienza. Giancarlo dalla provincia di Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno ai suoi ascoltatori. Sì. Vorrei cortesemente che mi aiutasse a colmare una mia lacuna in termini di normative internazionali, europee. Ieri ho sentito il signor Gagliani che diceva che fa un tipo sfegatato per tutte le squadre italiane, perché nel malaugurato caso venissero eliminate cambierebbe anche tutto il ranking europeo e quindi cambierebbe anche la quota di partecipazione. Mi può aiutare a capire qualcosa di più, francamente? La ringrazio, l'ascolto per radio. In base ai piazzamenti che le squadre di ciascuna nazione ottengono nelle coppe, si stabilisce questo ranking, per l'appunto, e cioè si stabilisce il numero delle squadre che hanno diritto di partecipare direttamente, per esempio in questo caso la Champions League, e invece quante o quanta, quest'anno sarà una, la fase di qualificazione, eccetera. Sono dati che vengono continuamente aggiornati, continuamente nel senso che a ogni stagione vengono aggiornati, e quindi poiché l'Italia ha già avuto un diciamo pure un fallimento globale nella scorsa stagione, un altro di questi fallimenti porterebbero, credo tra due stagioni alla perdita di una pedina, e quindi non più tre squadre ammesse direttamente alla fase finale più una ai preliminari, come sarà la prossima stagione, ma meno, e quindi in questo senso il ragionamento che ha fatto Gagliani è giustissimo. Daniele dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Intanto voglio dire che l'apprezzo, l'ascolto sempre e spesso mi trovo d'accordo con lei. Oggi avrei voluto parlare di coppe europee, però ho deciso di cambiare strada. Qua, mi riferisco alla partita di qualche tempo fa della Roma contro l'Inter a Milano, no? E c'è stato quel presunto fallo di Battista sul Cambiasso, no? Che poi ha fatto fare il gol. Ascolti, Daniele, ma sono passati 8 giorni, cioè non aveva detto che aveva un altro argomento, che aveva pensato a qualcosa di meglio, sinceramente. Non l'ha detto prima? È solo che mi è rimasto impresso un termine che lei ha usato che mi è sembrato molto molto al di là di quello che ascolto da lei, che è sempre così misurato. Ha chiamato cialtrone Mourinho. E dico sinceramente, sono rimasto un po' perplesso, tutto qua, adesso è questo che volevo dirle. La ringrazio comunque. Grazie a lei, la sua perplessità non è stato l'unico a essere perplesso. Io sono rimasto ancora più perplesso ad ascoltare una cosa di questo genere, cioè ad ascoltare uno stravolgimento dei fatti da parte di uno che passa per un grande comunicatore. Però non è che possiamo passare la nostra vita, no? ad inseguire quello che dice qualcuno o come viene interpretato. Marco dalla provincia di Verbania, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi. Dica. Buongiorno dottor Granzini. Mm-hmm. Volevo chiederle una curiosità, magari poi qualcuno ha già fatto la domanda. Sì. Ho visto la partita dell'Inter sabato, diciamo gli highlights alla fine della partita sulla Rai. E il primo gol di Ibrahimovic, a vederlo non si capiva se la partenza era in fuorigioco o meno. La mia domanda però era questa, ma hanno fatto vedere i replay di questi due gol, non so se 10-12 volte, adesso dico un'esagerazione, ma non potevano mettere una telecamera fissa magari a metà campo dove si vede la partenza del giocatore, così almeno uno tira via le polemiche senza parlare di Moviola, di contromoviola. E cosa mettiamo? Una telecamera ogni metro allora però? No! Mettiamo dunque 60, 110 il campo, facciamo 110 telecamere solo... No, va bene, però dalla metà campo verso la porta ne basterebbe una ad ampio raggio, invece di far vedere 18 replay di un gol a diverse angolazioni. Non so se me. Ne basterebbe una ad ampio raggio, ma soprattutto a parte che quel gol è regolarissimo e lo si vedeva a occhio nudo, cioè se vogliamo continuare a farci del male facciamo così, quindi mettiamo contro i due occhi dell'arbitro, i due occhi dell'assistente, che fanno 4 in totale, mettiamone appunto 110, no, ce ne sono anche due nell'altra metà campo, 6 occhi, mettiamo 110 telecamere, una al metro, e così la lotta sarà sempre più impari, no? E quindi gli arbitri ne usciranno con le ossa sempre più rotte, pur indovinando nella maggior parte dei casi, perché non c'è nessun dubbio che nella stragrande maggioranza dei casi comunque riescano a indovinare anche degli incroci quasi impossibili di fuorigioco, che non era certamente il caso di sabato, perché ripeto, si vedeva assolutamente a occhio nudo a velocità normale che un giocatore del Genoa si era addormentato nella parte del centrodestra difensivo e aveva tenuto ampiamente in gioco Ibrahimovic. Leonardo dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, chiamavo volendo parlare anche in proiezione Champions per domani, che aspetta la Juventus insomma a Torino con il Chelsea. Ecco, volevo dire questo. Intanto, visto che il derby già era in vantaggio 1-0, insomma, mi sembrava abbastanza sotto controllo, era proprio necessario fare entrare Sissoko per perderlo definitivamente? E quanto perde la Juve senza Sissoko in questa partita? E poi si potrebbe pensare a far giocare Iaquinta, visto che Marchioni non può essere della partita? Grazie. Non credo che tra Marchioni e Iaquinta ci siano caratteristiche ampiamente diverse. Se Iaquinta se lei pensa a Iaquinta come a un terzo attaccante in realtà, no? Da sommare poi a Del Piero e a Trezeguet contro una squadra come il Chelsea, io penso che sia un azzardo non da poco. Poi, per carità, dovendo ribaltare un 1-0, un minimo di rischi, anzi un minimo, un po' di rischi andranno corsi, si tratta di vedere se correrli fin dall'inizio o meno. È stato un rischio anche quello di far entrare Sissoko, indubbiamente ad un certo punto della partita, però vede, se è vero, e pare accertato, che questa mini frattura Sissoko se la trascinava da tempo e quindi era a rischio di saltare al primo tentativo serio, cioè alla prima partita seria, beh, insomma, invece che saltare dopo 5 minuti la partita con Torino, saltava dopo 5 minuti la partita col Chelsea, costringeva la squadra a una sostituzione in più nei primi minuti e credo che alla fine sarebbe stato anche peggio, così è a naso. Massimo, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno, Garanzini. Dica. È la prima volta che mi piace di parlare con lei. Io sono un tifoso dell'Inter. Sì. Premetto che non sono per niente affascinato dai metodi di Mourinho, tantomeno dal gioco che riesce ad esprimere la squadra. Io volevo solamente sottolineare una cosa, ho sentito tante polemiche in queste settimane. Volevo fare un'osservazione, va a finire che con la fortuna che si ritrova riesce anche a qualificarsi contro il Manchester. E la cosa mi dispiacerebbe non poco, perché le ripeto, io sono un appassionato del bel gioco. E dal penultimo anno di Mancini, quando c'era ancora Veron, io l'Inter non l'ho mai visto più giocare come allora. E sono ho un po' di rammarico per questo, perché è vero che non si vinceva niente, ma almeno c'era gusto a guardare la partita. Beh, è un curioso genere di tifoso, lei, indubbiamente. Non so quanto condiviso, anzi, credo in una posizione un po' meno che minoritaria, non so, la sinistra storica, forse, no? Se per rapportarli in un altro campo attuale. Il fattore C in questa stagione ha inciso, e quindi se dovesse manifestarsi anche a Manchester, indubbiamente sarebbe il momento più opportuno innanzitutto, e sarebbe, a parte che come sempre gradito, potrebbe risultare determinante. Poi è anche vero che l'Inter di quest'anno certe volte ha avuto bisogno di robuste iniezioni di fattore C, e magari non solo, altre volte come sabato a Genova non è stato il caso invece, e mi sembra che se c'era una partita difficile, ma davvero difficile, anche per le premesse di tre giorni prima in Coppa Italia sullo stesso campo eccetera eccetera, fosse la partita di Genova, in cui non c'è stato bisogno di alcun aiuto, nemmeno del fattore C, perché l'Inter la vincesse, direi, con eccellente sicurezza. E ripeto, una partita ad alto coefficiente di difficoltà. L'unico aiuto che ha avuto è stata questa da benaggine difensiva del Genova dopo tre minuti, ma la bravura a saper sfruttare gli errori degli avversari non è certamente fortuna. Questo è un merito, è sempre stato un merito molto ben preciso. Gli arbitri di mercoledì: tedesco Stark dirigerà Manchester Inter, mentre Roma Arsenal tocca lo spagnolo Mejuto Gonzalez. Poi ci sono delle dichiarazioni di Marcello Nicchi, il neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, che è succeduto a Cesare Gussoni, che dai microfoni di Radio Anch'io lo Sport ha rinunciato l'operazione simpatia degli arbitri, che avranno facoltà di parola, però ha dettato le condizioni. Io non ho intenzione di mandare persone allo sbaraglio, voglio che la gente ci conosca. Finora abbiamo sbagliato su una cosa: non siamo stati bravi nel marketing, e invece siamo capaci di far capire chi siamo e come lavoriamo. Questo ci porterà a uscire da quella cappa che ci avvolge da tempo. Vogliamo dire quando sbagliamo, ma lanciare anche un'operazione simpatia e sentirci dire che abbiamo fatto bene. Ma in ambiente polemico non ci vedrete mai, e mai commenteremo a caldo. Finché non si è espresso il giudice sportivo, noi non possiamo parlare. Sinceramente ho sentito propositi innovativi di alto spessore in passato, e non soltanto in ambito arbitrale. Fabio D'Amico ha già scritto una lettera a proposito, da Santa Lucia del Mela, provincia di Messina, scrivendo: l'euforico e innovativo Nicchi ha preannunciato conferenze stampa arbitrali per completare l'operetta, scrive questo corrispondente. A che cosa potrà servire una conferenza stampa che sarà sicuramente ricchissima di possibili risposte da parte del direttore di gara? Non si capisce, anche perché potrà dire tre cose soltanto, scrive questo ascoltatore: non l'ho visto, l'ho visto dentro, l'ho visto fuori. Tutto questo abbiamo appena preso dopo che si sarà espresso il giudice sportivo, quindi credo di un interesse mediatico straordinario questa innovazione di Nicchi. Marco dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, salve, io volevo un suo parere. Sì. Io sono un profondo estimatore di Alberto Gilardino. Sì. E però è negli ultimi anni che noto questo suo rendimento altalenante, sia quando era nel Milan che adesso alla Fiorentina, perché era partito bene. Poi volevo sapere, secondo lei, che cosa, come mai questa sua caratteristica negativa, insomma. Forse qualche deficit di carattere, io penso, però calma con l'altalenante. Cioè, sto guardando la classifica cannonieri, c'è Di Vaio a 19, Gilardino a 15, alla pari con Ibrahimovic e con Milito, però Milito ha segnato 5 gol su rigore. E quindi davanti ad Amauri, a Pato, a Mutu, a Di Natale, a Kakà, eccetera eccetera, quindi ci andrei un po' pianino. Cioè, se parliamo di un campione assoluto, allora qualche domanda quale quelle che lei si pone, mi pare lecita. Se parliamo di un rendimento di un eccellente giocatore da Serie A, perché ripeto, 15 gol per un centravanti davvero non sono pochi, no? Dopo 25 partite circa di campionato, mi sembra un po' severa. Forse lei si era illuso. Ho sentito anche, se non sbaglio, un accento vagamente biellese, quindi una cosa da simpatia o da empatia territoriale anche, che capisco bene. Forse magari qualcuno si era illuso che Gerardino potesse essere il centravanti del secolo. Non mi pare che ormai a 26 anni suonati, va per i 27, non mi pare che possa essere così. Però un centravanti che in Serie A ad alto livello ci sta, e come, mi sembra che continui a esserlo. Roberto, credo, da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo un suo autorevole parere sulla differenza. Autorevole, vediamo, eh. Sì, no, mi scusi, sono un po' emozionato. No, sulla differenza che, siccome ho avuto una discussione con un amico, sulla differenza che c'è tra Ibrahimovic e Van Basten. Io do questa mia, praticamente, secondo me Van Basten era un campione vero, un campione completo, invece Ibrahimovic a livello soprattutto internazionale non ha ancora dimostrato nulla, o Roberto, quasi nulla, gliel'ho detto prima che non sarei stato autorevole, perché io personalmente non amo queste cose. Van Basten era Van Basten ed era un pezzo unico, è stato assolutamente un pezzo unico della storia del calcio negli anni 90. Ibrahimovic è a sua volta un pezzo unico, sta avviandosi a esserlo in questa nuova epoca. Invece poi, a parità di stazza, uno aveva un'eleganza, Van Basten, che Ibrahimovic non ha. Però è anche vero che la potenza che Van Basten non aveva, a dispetto della statura che Ibrahimovic ha, è comunque quasi sempre coordinata con una grande eleganza, che non è quella sublime di Van Basten, ma che comunque è una signora eleganza. Tutti e due, mi pare che anche Ibrahimovic abbia dei colpi improvvisi, dei colpi davvero da vero genio del calcio, no? Che forse Van Basten possedeva in misura maggiore. Van Basten era anche più concreto sotto porta, cosa che Ibrahimovic spesso non è, perché gli riescono molto bene le cose difficili, o spesso gli riescono benissimo le cose difficili e raramente gli riescono quelle facili. A Van Basten riuscivano tutte e due. Però è anche vero che poi Van Basten ha avuto una carriera troncata in età abbastanza giovanile ancora da un grave incidente, e quindi chissà dove sarebbe arrivato se non avesse avuto quella caviglia che lo tormentava. Van Basten è stato, ripeto, un pezzo unico. Ibrahimovic sì, lo è già entro certi limiti, può acquisire una dimensione migliore se va avanti, cioè se migliora il rendimento in campo internazionale soprattutto, direi. Raffaele, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, innanzitutto complimenti per la trasmissione e complimenti a lei, sono molto valida e molto esperta. Senta, volevo sapere una cosa, come spiega innanzitutto i tanti infortuni che stanno succedendo, una continuazione, io parlo da tifoso della Roma, adesso ho sentito Sisigno 6 mesi, cioè una cosa che ogni anno che passa è sempre peggio. E come vede la partita della Roma con l'Arsenal? E l'ultima cosa, come mai non si impiegano delle innovazioni tecnologiche, tipo metterlo in campo, tipo per valutare bene se è gol o non gol? Nel 2009, in un ambito calcistico dove girano tanti milioni di euro, chi è che non vuole queste innovazioni? Questo è il fatto. La ringrazio. Raffaele, chi non le voglia, cioè è un discorso che abbiamo fatto un milione di volte, alla fine chi conta, chi non le vuole ed è quello che conta, è l'International Board, è la FIFA e l'UEFA, sono le autorità internazionali calcistiche, alla fine sono loro, no? In ultima istanza, così, perché sennò andiamo avanti per alcuni giorni. Non ricordo le altre due domande, onestamente. Ah, una sì, una negli infortuni. Troppi, indubbiamente tanti, tanti, anzi indubbiamente troppi. È difficile dire, difficile attribuire delle responsabilità precise. Si diceva anche prima, il calcio molto veloce, la possibilità di impatti sempre più frequenti, è vero, cioè, tutte queste cose ci sono, però io penso che in fondo la ragione vera sia che tutte queste macchine vengono ormai, tutti questi motori vengono ormai tirati all'estremo, e quando si tira un motore all'estremo il punto di rottura è sempre più vicino. Credo che sia questo. Credo che sia questo, unito, come diceva prima, leggevo quell'agenzia del presidente dei medici sportivi, unito a un calendario sempre più fitto, sempre più ravvicinato di impegni, in cui c'è spazio per giocare, ma non c'è più spazio per allenarsi. E allenarsi vuol dire anche assorbire, oppure c'è spazio solo per allenamenti agonistici veri, che precedono magari una partita, e quelli sono gli allenamenti in cui ci si fa di nuovo male, e tanto male, come in molti casi è accaduto proprio in quest'ultimo periodo. Dalla provincia di Alessandria c'è Roberto, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. Una domanda di carattere tecnico. Visto che a volte si verificano situazioni in cui vengono definiti falli non da rigore, però il contatto c'è stato, eccetera. Ma visto che l'area di rigore fa parte del rettangolo di gioco, è stato abolito il calcio a due in area? No, non è stato abolito, credo, è passato di moda. Perché insomma, credo che il pensiero corrente sia stato questo, credo che sia stato assimilato ante litteram al concetto di cartellino arancione, e cioè se è fallo è rigore, e se no non è fallo. E invece in qualche caso io credo che ancora si vedano, rari, ma si vedano quei casi di ostruzione, per esempio, che una volta erano il presupposto del calcio a due in area. Probabilmente, senza che sia stato abrogato, ripeto, ma probabilmente l'uso è stato un po' alla volta sconsigliato dalle autorità arbitrali, proprio perché soprattutto da noi, in questo caso, soprattutto in Italia, si tende a non decidere molto, no? L'arbitro nelle situazioni più difficili tende a prendere la via di mezzo, quindi avrebbe avuto una via di fuga, o avrebbe tuttora una via di fuga, che non è, insomma, che non è poi così apprezzabile, nel senso che o è rigore o non è rigore, è come l'espulsione, cioè o è ammonizione o è espulsione, non può essere una via di mezzo per cui ti espello per un po', sarebbe ridicolo, io credo. Paolo, provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno, un piacere parlare con lei. Sì. Senta, le volevo chiedere un suo autorevole parere sulle istruzioni che sono uscite ieri a San Siro. Così, volevo un parere. Il parere... Non lo so, sono uscite le istruzioni a San Siro, non... No, sì, cosa avrà, no, non lo so, abbia pazienza, non sono al corrente. Immagino che non fosse, potessero non essere molto teneri nei confronti della società, immagino, no? No, così a spanne. Però sinceramente non ne sono molto al corrente. Se contestavano la società, direi che dato il momento ci può stare, dato il momento di cronaca ci può stare, dato il momento storico no, perché se i tifosi del Milan contestano il Milan, vorrei sapere tante altre società cosa dovrebbero fare. E insomma, non seguo queste cose, ripeto, anche perché sono rituali stanchi e tutto sommato direi anche poco significativi. A proposito di Van Basten e Ibrahimovic, come spesso succede, la cosa più intelligente la scrive un ascoltatore, che fa notare come alla fine chi vince tra i due è sempre la squadra dell'Ajax, perché anche Ibrahimovic, come Van Basten, è cresciuto alla squadra dell'Ajax. Ora, credo che stiamo parlando di scuola dell'Ajax di una volta, nel senso che quella di Van Basten risale a ormai a molti anni fa, e quella di Ibrahimovic a parecchi. Non so se attualmente la squadra dell'Ajax sia ancora così prolifica, può darsi che sia soltanto un momento di appannamento, ma insomma, in ogni caso quella è quella che vince e che mette d'accordo tutti. E ringrazio questo ascoltatore che purtroppo non ha firmato questo messaggio assai interessante. Sembra ieri il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 marzo 1960. A Berna, la nazionale giovanile, l'under 21 dell'epoca, batte 4-0 la Svizzera in un amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Roma. Protagonisti due ragazzi molto promettenti che debuttano proprio in quella partita. Sono il 16enne Gianni Rivera, in forza all'Alessandria, e il 19enne Giacomo Bulgarelli, centrocampista del Bologna, autori di una doppietta a testa. La nazionale giovanile, allenata da Gipo Viani, a Roma sfiorerà il bronzo, beffata dall'Ungheria nella finale per il terzo e quarto posto. Oltre a Rivera e a Bulgarelli, di quella squadra facevano parte anche il terzino Burnic, che allora giocava nell'Udinese, i milanisti Salvadore e Trapattoni e il torinista Giorgio Ferrini. Questo è un bel amarcord d'autore con un'inesattezza, perché la nazionale olimpica di quell'anno non fu allenata da Gipo Viani. Viani era il direttore tecnico, ma l'allenatore era Nereo Rocco, l'allenatore di quella nazionale olimpica alle Olimpiadi, per l'appunto, del 60 a Roma. Antonio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, Garanzia. Senta una cosa, no, intanto un inciso sulla scuola Ajax, è vero anche che i fenomeni non nascono nelle scuole, sono stati bravi gli osservatori e fortunati a trovarli. Le scuole calcio formano tanti buoni giocatori come li formava Vatta del Toro. Beh, questo è un settore giovanile, però tra settore giovanile e scuola calcio c'è una discreta differenza, io credo. Sicuramente sì, insomma, però diciamo che le grandi cose le ha fatte il Toro e poi le ha perse. A proposito del Toro, io sono un tifoso della Juve, volevo dire questo, sono tifoso della Juve sui generis perché insomma, tra Juve e Toro preferisco la Juve, però insomma se perde il Toro mi dispiace. Sabato sera ho visto un grande Torino che ha giocato molto bene. La mia domanda e la mia riflessione è, piuttosto che pensare agli episodi, chiedersi come mai questa squadra del Toro riesce a giocare a questi livelli contro la Juve e contro l'Inter. E poi fa figure che come ha fatto quest'anno contro altre squadre che magari dove la motivazione bisognava andarsela a cercare non era data dalla partita in sé. Avesse fatto questo, avesse giocato sempre come sabato sera con tutti i limiti che ha in attacco, con tutto, il mio pensiero è che probabilmente sarebbe una situazione di classifica diversa, tutto qua. E un tifoso del Toro dovrebbe richiedere questo impegno sempre alla sua squadra, questo penso io. Sì, io credo che se anche questo sia un segnale proprio invece di debolezza estrema, nel senso che se il Torino gioca, come lei dice, perché io non ho visto questa partita, ma se sto sulla fiducia, se lei mi dice che Torino ha giocato un ottimo, un'eccellente partita e ha perso contro la Juventus di scarto, no? di schierata quella sera, questo è l'ennesima prova di dei limiti gravi di una squadra che è stata costruita male negli anni, non soltanto in questo anno, e che soprattutto è di una pochezza offensiva assoluta. Poi c'è la famosa storia, prima c'è la famosa storia della coperta corta, per cui questa fase offensiva sarebbe magari, non dico più brillante, ma più decorosa se appena appena la squadra spostasse leggermente avanti il baricentro, ma in quel caso, anziché prendere gol a 9 o 10 minuti alla fine, lo prenderebbe molto più per tempo, come accadeva prima. E quindi, indipendentemente poi dal fatto che una squadra si impegni o non si impegni, o si impegni al massimo o quasi, e credo che in un derby sia un po' difficile non impegnarsi a fondo, al di là dell'impegno intendo dire, credo che sia proprio una prova di mediocrità anche questa, perché non mi pare che la Juventus fosse né avesse schierato la formazione migliore, né per quello che ho letto, sentito, abbia poi dato in campo il meglio di sé, insomma. Andrea da Lucca, buongiorno. Buongiorno dottore, io sabato ho avuto il piacere di andare a Genova a vedere la partita, no? Piacere sì. Per modo di dire, perché io mi sono domandato, guardando quest'anno per la prima volta dall'Inter dal vivo, questi signori allenati dall'incantatore di serpenti che cosa facciano agli allenamenti, perché io sinceramente dal vivo ho visto una squadra con un Maicon che prende palla nella sua metà campo, lo porta fino in fondo, riesce a tirare o a crossare, un Ibrahimovic imbarazzante per manifesta superiorità. E intanto voglio ringraziare l'intervento della persona al primo intervento, perché ha descritto il gol di Ibrahimovic veramente nella maniera tecnica come andava descritto, questo un po' ridondante magari, però come scusi? Un po' ridondante magari, però sì. E dicevo appunto, dico, ma questi signori che si allenano da luglio tante volte, anche due volte il giorno, cioè riuscire a non fare mai un movimento senza palla, cioè io ho chiamato oggi perché secondo me chiamare dopo mercoledì sera sarà troppo facile e a risultato è venuto di Manchester, perché pensiamo che una società come l'Inter, che con tutto quello che spende, con tutto l'impegno profuso, diciamo, dal suo presidente, diciamo così, e essere attaccati a sperare nel fattore C o a sperare di fare un golletto, cioè voglio dire, una squadra che si dovrebbe presentare a certi livelli con una sicurezza. Andrea, io per un po' l'ho seguita, adesso non esagererei comunque, perché credo che qualunque squadra oggi si presenti, sia chiamata a presentarsi sul campo dell'Old Trafford, non credo che ci sia qualcuno che va là a spavaldo convinto di dominare la partita, no? Quindi questo credo che valga anche per l'Inter. Nella fattispecie di sabato, l'Inter, lo ripeto, ha avuto certamente la fortuna di far centro al primo tentativo e tra l'altro dopo aver già corso un grave rischio nella propria area. Però la fortuna è anche un merito, perché lei ha detto giustamente: imbarazzante superiorità di Ibrahimovic, gli è capitato un pallone e l'ha trasformato come meglio non si sarebbe potuto. Su quello ha costruito una vittoria su un campo che era imbattuto dall'intera stagione. Mi pare che sia una vittoria su cui non ci sia molto da discutere. Aggiungerei che nel giro di 10 minuti nel corso del primo tempo ha perso due difensori centrali, avendo già i due titolari, e cioè Samuel e Kivu, fuori. Beh, insomma, non esagererei, no? Tutto sommato. Poi se poi vogliamo parlare di qualità, di discorsi, cioè, d'accordo, possiamo farne tanti discorsi e alcuni rinviarli, anzi, ma demolire questo risultato, non tanto il risultato, ma la prestazione proprio anche di sabato, e non tenere conto, per esempio, di quelle due attenuanti di due difensori centrali. Lei non dimentichi che quando la nazionale italiana ha perso due difensori centrali uno dopo l'altro giocando a Cipro, contro Cipro, e quindi non sul campo del Zena, che in questo momento era un campo imbattuto, è saltata per aria l'Italia, e alla fine altro che fattore C quello di Lippi per pareggiare contro i ciprioti, no? Non è semplicissimo perdere la coppia centrale un pezzo dopo l'altro, a parer mio, e portare a casa la pelle, insomma. Non solo portare a casa la pelle, ma vincere la partita. Umberto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno signori, ascolti, chiamavo semplicemente per una domanda. Sento sempre parlare di Juve, Milan e Inter. Ha chiamato un ascoltatore da Napoli, convinto che fosse un napoletano, invece tifava Roma, e io sono un tifoso della Roma. Le ha fatto una domanda e lei se ne è dimenticato. Che cosa ne pensa di Roma Arsenal? Ecco, solo questo volevo sapere. Grazie, ascolto per radio. Mi scusi, abbia pazienza, è vero, ma quell'ascoltatore ne ha fatte tre e facendone tre me ne sono persa una. È meglio che non dica cosa penso di Roma Arsenal, nel senso che non mi sembra che ci siano elementi per essere ottimisti. Poi sarei non felice, strafelice di essere smentito dai fatti, perché continuo a pensare alla suggestione di una finale di Coppa Campione all'Olimpico, ma la vedo duretta. Rapidamente, da Genova ha chiamato Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Il problema è questo. Vorrei riferirmi un po' al monocchio del regolamento. Io ne parlai a suo tempo, si figuri, con Brera, il quale mi ha subito detto che non si cambia niente, che il calcio è bello così. Il problema che vedo che non servono le morviole, tutte queste barate, sì. Però non si potrebbe mettere gli arbitri un po' più in condizioni di giudicare con semplicità? Appunto, bisognerebbe abolire tutti gli orpelli che li travolgono, che li condizionano, a cominciare per l'appunto dalla famigerata. Grazie a Peter Biscappè, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani, Giornale Radio.